perché non puoi mantenere sempre la stessa acqua, capito? E ho preso la ferrovia da 1,5 litri, che l'ho usato per la macchina da caffè. Quando devo cucinare brodo, un po' d'acqua e bottiglia, elettrone, acqua e bottiglia, se devo cucinare cosa asciutta, acqua rovinetta, perché poi viene pulita, per l'istante poi non la butto via, mangio solo la parte che cotta. Però se devo fare roba di brodo, roba di minestrone, io mangio tutto, allora metto le bottiglie, ecco perché sto troppo di acqua, e tanto ne ho fatto un po' di acqua. Ma io prendo l'acqua Moschetta, ed è buona quella lì, da 2 litri. C'è anche la quercetta? Sì, anche quercetta è buona. Lo so anch'io quella, infatti. Però questa qui, la Plus, è una cosa strana. Più ne bevi, più ne lo pisci. Cos'è quella? Cos'è quella? Perché me ne sono accorto. Io ne bevo quasi 2 bottiglie a notte. Eppure non pisci un accidente. Sembra che tanto l'acqua me la sto gonfiando io. Come la birra, capito? Una bottiglia a notte. Io se avevo un cc, quando aprire di corica non li tocco più, così domani. E domani sono contento a prenderla perché devo prendere pastiglie. Se non manco richiedo acqua. Ma non è che c'ho il diabete, giusto? No, la verità no, perché la verità non è che bevo... avevi bevuto minimo 1,5 litri di acqua di notte, non sai anche tu, il discorso è quello. Eppure non ne bevo io la notte acqua, lo bevo la mattina prima di non sapevo, penso alle 6:30, una cosa del genere. Sì, ma di solito devi avere circa 3 litri di acqua al giorno del tasse. Però secondo uno sta già qualche attività eccetera. Ma io gioco una dieta infine, sono sempre da fresco, quella con l'altro, poi mi non dico l'intermezzo anche troppo, perché non ne ho necessità di bere. Se io bevo molta acqua, vuol dire che il problema c'è. Niente a farti fare qualche piccola visita, non sa mai, tu dice non ci viene del diabete. Non sa mai, e anch'io ne avevo mia donna. Ma mi ricordo per fidare, analisi, chiede che d'altro mi hanno avuto diabete. Ci si dice, ma in questo caso non ne ha avuto nessuno. E questo mi dopo il Sant'Anna, mi dice, non è un cinto. Componio. Dimmi. Ciao Luca, dimmi. Ma mi senti, sì? Non voglio, ti sento. Cazzo, funziona ancora, vabbè, dai. Sto per vedere se andava, vabbè. Oh, tu mi senti, Tony? Ah, poppa. Ah, ok, dai. Avevo avuto più già, lo so, a casa di mamma. Vabbè, dai, proseguita. Venga, poppa. Ok. Capito, poppa. Uno che deve molto acqua, io so che uno avrà diabete, io cioè, ho diabete di anzianità eccetera, però non è che devo tutta questa acqua assolutamente, certo di notte ho udito questo bicchiere di pizza, io non li dico, io prendo un bicchiere, mi raggio nella pasta, quando mi giro la pasta all'acqua, mi sento frullo, no, io bevo molta acqua e mangio una pizza con capra e acciughe, mi piace troppo, ma non ne mangio perché so che poi bevo troppo, ma se mi troppo sedia, che la roba è salita. Capito? Io non posso solo mangiare, ma l'acqua che ho bevuto l'ho fatta, è troppo buona la pizza, però non ne mangio più così, basta, la pizza breva. Allora, diabete viene, oddio, viene, se bevi molta acqua e poi pisci di continuo, allora c'è qualche problema. Ma io non pisciamo così, grazie a Dio, la mattina poco per me ha fatto. Ma vabbè, dico, buon pollo, se bevi molta acqua, dipende da questo, io ormai mi sono fatto... l'esperienza con mia madre, capito, vabbè, ci basta procurare una macchinetta per misurare la glicemia, ti buchi il dito un attimo e scopri subito, se supera, non so, i 130 c'è qualcosa che non va, oppure la devi misurare a digiuno, se la digiuno è altina allora vuol dire che sei un po' messo maluccio. No, ce l'ho io la macchinetta, non c'è problema, io ce l'ho già detto, io ho 113, 112. 150, aspetta, è metabolismo, ma il diabetologo è un certo tema, non si spaventare. Una volta a Maggio Pizzo, una bottiglia d'aranciata fatta, che è stata da 2,40, e sono spaventato. Ha detto, dottore, guai a te, non ne bere più roba da gazzata, aranciata con Coca-Cola, nulla, acqua e bocca, infatti. E sono, e più tanto mi piace che non ne bere acqua naturale, sto bene. qualche volta qualche bicchiere di acqua gassata la mattina si porta al bar, quando capita brutta la situazione, all'acqua di gassata non fa niente maestro. Ma questi prodotti come Coca-Cola, Fanta, questa roba qua gasosa, lì c'è troppo zucchero dentro, e c'è la fame, e bicchiere. Io mi mangio un gelato una volta ogni tanto, già mi fa bene, però non è che mi abbia visto, mi faccio abituare a mangiare il gelato, non mi mangio, una volta ogni tanto già fa bene. Però, Antonè, cosa ci vediamo, il porto la bacchetta presto, anche da distribuire che c'è via, fate la puntolina ma con la stessa latente qua, ti metto l'ago nuovo e via. non c'è bisogno, non ti preoccupare, non le ho lì, aspetta, sta tranquillo, se vuoi sarei accorto subito. La notte bevi tutta notte acqua, quindi no, io grazie a Dio la bevo solamente quando mangio roba salata e basta, bevo l'acqua, poi la mattina in pratica urino poco con quell'acqua che abbiamo spinto, capito? Magari c'è quello è il problema, è un tipo di acqua che non ti fa urinare, porta qui, hai capito? Invece la concetta, quella sì, è una cosa allucinante, vai lì da bevi per dire due o tre bicchieri, vai direttamente in bagno e vai a urinare. E invece con questa qui, finisce appena e basta. Vabbè, la supposta nel culo ci vuole, Antonè. Allora io sono abituato a mangiare il mambo, sale non ne metto mai, via basta. Il caffè se me lo prendo al bar me lo prendo amaro, prendo un po' di latte, sono abituato, sono 5 anni che lo bevo così. Comunque Antonè, guarda che non succede niente per mangiare la glicemia. Sei più sicuro e più tranquillo. Ma che un pochetto non te ne accorgi neanche che sta mettendo fino l'ago, ma manco lo sì. Sì, vabbè, d'accordo, non c'è problema, lo farò al limite. Poi adesso vi faccio mettere la pompa per sotto, capito? In modo da sollevare il traliccio, capito? Siccome non ce la faccio più con le mani, devo farlo per forza con quello di mezzo. Come te che fate la pompa che fa di mezzo? Manuel, magari al canale dei numeri. Stavo dicendo a posto del diabete che non ce l'ho, ti faccio mettere la pompa sotto. Come Berlusconi, capito? Quando deve sollevare un taliccio per piazzare un po' terrario, quindi automaticamente ci parlano le cose, capito? Campania sono qui. Meno male, che tu sei in campagna. E un secondo che mi devo mandare un messaggio. Sì, d'accordo, non c'è problema. Sono i medici che sono me. Ah, sì, vabbè. Si tratta di attuare, 857. No, sto usando l'apparecchio omologato, non te sei accorto, Sto usando quel baracchino di merda. Detta X40 Pro, 40 della... sai, Holman. Esce bene. So che c'è bene. Basta metterci le beta 100 oppure quello che ce lo seguo io. Il microfono. Sono gli unici che vanno bene. C'è nessun altro. No, va bene. È chiara come modulazione. E quello là non sei riuscito a darla ancora. No, ancora no. E se per qua. Vabbè. Se la piglia il culo mi, a un certo punto me lo tengo io. Mi faccio una ragione. E va fa culo. Se capita che entra a lavorare, vado e immediatamente comincio a studiare in mano e prendo direttamente ciò che devo comprarmi con tanti e se la piglia il culo. Non devo stare a sventiare, a chiedere, eccetera, capito? No, non fa più così, capito? Se vai a toccare l'elemosina a un certo punto. Le tu lo vuoi la roba, la vuoi sì, e ti la vuoi lavorare regalo, qui non c'è proprio, ma fa il culo, fa il culo, la roba rimane qui e va a fare, se la pia in Napoli, se la pia, e c'è la butta. Ma non me la prendo, me la prendo in contanti, la prendo nuova, la nuova, e non devo stare a rompermi le palle, il discorso è quello. Almeno sono tranquillo, tranquillo, non devo fare niente, niente. L'unica cosa da pensare è solo mettere alle rate al limite oppure i contanti. La prima cosa che devi fare, come te l'ho già detto, quando vai di mano, vai a scuola guida, ti scrivi e ti pidi la patente, no, motorino e bicicletta, raga, lascia le perdere quelle cose lì. Ti prendi la patente e ti prendi la macchina. Sì, va bene, la macchina 50 ti prendo. No, la macchina normale. A questa età, ma sei scemo? Sei scemo? Io sono tipo 90 anni, cazzo, si piglia la patente a 90 anni. E non saranno mai comodo. Non saranno. Non esistono. E cazzo, non sei vecchio? Quanti anni hai? 55 anni ce li hai? 56? 58 ne ho, sono arrivato quasi a 60 anni, quindi ci mancano 5 anni per la pensione sociale. Beh, non sei vecchio, cazzo, a chi ha 60 anni non ti ha potuto abbattere. Sì, ma non ti piglia nessuno, allora, è scusa per quello. Anche se dovessi pigliarmi il patentino adesso, 50, non ti piglia nessuno a lavorare, il discorso è quello lì. Perché vogliono che tu guidi in pratica, capito, l'auto della vita, hai capito? Il discorso è quello lì, non l'auto tua, non ti danno cazzo indietro i soldi della benzina, quindi a un certo punto è quello, vabbè. Il casino è quello lì, quindi sono incasinato lo stesso, non cambia nulla, ormai sono arrivato a quell'età lì, ci mancano 5 anni, dopodiché ho finito di rompermi le palle. Sì, vabbè, già si sistemano le cose, vediamo un po' se c'è Tonino, Tonino, ci sì. Un attimo, dietro subito. Ok, là. Qua sono. Qua sono io. E così, piano piano, Antonio, vedrai che ci vuole volontà, se ti serve, che hai bisogno, ci vuole volontà di prendere, insomma. Se tu ti metti in testa di che vuoi prendere, ti l'abili di sicuro. Se uno, come mio cognato, lo portava un mese intero, che lo portava a scuola guida, si è stufato e non c'è più andato. Che lo portavo io a scuola guida, Beh, scuola guida è una passione, la verità. Perché a me piace guidare, il discorso è quello. Il discorso è che io mi sono trovato quando è nata questa questione della patente per poter avere il motorino, roba del genere, sono rimasto nel tasso lì e si fa niente, quindi a un certo punto ho avuto, come si dice, eliminare tutto, sono rimasto quasi 2 mesi, la verità, mi ha dato questa patente. Dopodiché ho preso la fanculo e ho regalato tutto, molto quanto c'era. Io ho aspettato 8 mesi, andavo, sono andato a scuola guida per prenderla. 8 mesi, ho fatto il conto, però mi interessava di prenderla. 8 mesi ho quello che è, me l'ho presa. Sì, ma tu ti hai pigliato la patente per l'auto, no? Per la moto? Il motorino 50, il discorso è quello. È la stessa cosa, adesso un motorino 50, una macchina è la stessa cosa, sono le stesse, gli stessi acquisti sono. Sì, vabbè, ma sono state 36 ore più che altro, no, un mese e mezzo, il discorso è quello. Guarda tu lì, che mi assento un attimo, che ne fa male la schiena. Sì, cosa fai? Poi ci copri il rutto, dai. Mamma mia, non ce la faccio più, no. Becchiando sto cazzo. Dai, che domani sta arrivando, dai, sono qui, un po' di ore ancora. Voglia, che becchiando, io ce l'ho. E tu, Antonè, stavo soltanto a pressione sociale. Contributo non hai? No, ne ho, no. Sono fatto 12 anni grande, sì. Ho fatto causa, il principale, cosa ho fatto causa per niente. Tutto bruciato, 12 anni, pensi nel corso, quindi nella mondezza, a questo punto. Non c'ho niente, no, non hai capito, non c'ho niente, l'unica cosa è mia, se tutto va bene la persona sociale, se no se la piglia in culo, e va a far culo, a un certo punto. 10 anni lavorati in negozio, con la qualifica che mi hanno dato. Persi per colpa dell'avvocato, capito? Io ho 39 anni contributi all'astronomo da 40 anni, più un anno militare 41, a 17 anni, quasi con la marcia non è fatto. Aiutati. Così è, a meno io avrei avuto 12, anzi no 12, 20 anni di contributi avrei avuto, è andato con la minima questa, ho capito, invece niente, se ne avrebbero riconosciuti, 20 anni si erano tanti, anche bene, Allora, mio fratello sarà soltanto, come c'è di grande idea, allora che dopo 70 anni, tu arriva oltre 600 euro al mese. C'è una bugia, se è vero, buon per te, se ti hanno lasciato poi arrivi a 70 anni e ti hanno fatto di più. Se sono andato da più a 70 anni, dipende da tutto da quello, il discorso è quello lì. Altro che figlio 780, cioè non 780, sì 80, quindi... punto, vabbè, non li puoi spendere, quindi sei incasinato. Cosa fai? Tutta carta, una vede i contanti, l'altra vede così. E io ho la fortuna che non mi danno tutti quelli della pensione per il foresto prendendo, però so che almeno la metà me la danno, quindi arriverò, penso, a 1,5 resti di pensione. Cazzo voglia, non ti va bene, basta avanza per fare tutte le spese, tipo pigliare un'auto di lusso, ma cosa devi prendere un'auto nuova, se la paghi a rate, se la trovi in culo, ma c'è troppo. Dopodiché penserai a te. No, ma non è, Antonella, ma la prendi con tanto. Perché ci con TFR, per i 3 anni di TFR, la prendi con tanto, però una bella panda diesel multigetti, mi piace a te. E dici, tanto manca a camminare con lì, poi. Andati in contanti. Meglio ancora. E ci manca poco a pigliare il contanto, perché ci vuole molto, quindi. Meglio a te. Allora, meno 13, come arriva a settembre posso dire meno 12, un anno di più. Va bene così, allora sei tranquillo. Ti prendi una macchinetta, almeno sei tranquillo, non devi stare calo, ogni volta la meccanica. Cazzo, da una cosa all'altra, ma per già accolto una cosa in faccia l'altra, ma per già accolto una cosa. 5.000, sì, Emanuele, a te che ti hanno mandato la buonanotte, che ti scrivi un messaggio buonanotte anch'io, ma non è per. Sì, ok. L'ho fatto. Anche se ti scriverà. Andato, sì, tutto a posto allora. Sì, tu pensa che io mando la buonanotte a 25 persone? Io lo dico. La dico che io. Dottore, che non solo la buonanotte, non solo la mattina presto. E alcuni di oggi il buon pranzo, per dire, no? Ma le persone più che ci tengo di più. Va bene, amiche che lo vai mai visto. Sono la buonanotte, sono anche parenti, amici, cioè. Stai bene, ma non quello. No, mi fai vedere che sei presente, che altro. Sì. Buongiorno, buona domenica, chi me la manda a me io la mando agli altri, un altro me la manda diversa, io la mando a quella che mi ha mandato per prima, che me la manda agli altri, sempre cambiato. la cosa giusta, la cosa giusta. Allora io la penso così. Importante ricordarsi sempre degli amici. Amici sempre sei regolari, maiuscola, a chi crede veramente alla amicizia, non solo per interesse. Beh, quella è logica la cosa, lo sai anche tu. Anche io se potete fare manco, non posso pensare comunque a voi, dico basta. Non so, c'è poca io, no? So, ti conosco, non ti preoccupare per quella. E fai la cosa giusta, perché sei tranquillo. Ma non avete separato me? Cioè, ma di schiena, cosa fate? Non penso con la comunità che anche di fare le chine. Che fine hai fatto? Manuele, ma ti devo chiamare al telefono. Mi dice, sto andando in bagno. Ok. Ma che dici? Un attimo che mi fa male la schiena. Cioè, cosa ci fate? Il massaggio ci fate? Mi sta cercando la ragazza vicino a casa sua. A fargli i massaggi, capito? Quella volta che gli facevo fare i massaggi. Ma c'erano ragazze vicino a casa sua. Intanto le conosceva una e faceva il furbo. E se va bene ci facciamo 5 secondi, adesso ci manca, se macchina mia no, ma penso che vuole, ci vediamo, è pure un di vista, se lo treno, non lo treno, chi vino per me, qui, vabbè, e arriviamo freddo, ci arriviamo freddo. E c'è la spiaggia, è rumore indietro, quindi in montagna, sotto Monte Pigiano, Ma non è G, aspetta lei, fa 2 minuti. Arrivo subito. Ok. Ciao. E allora? Sì. Ma io non subito, ho chiamato la Repubblica. Ha detto, guarda un chiamato di schiena. E cioè cosa hai fatto? Ginnastica. Ginnastica, nel letto, cazzo ginnastica, ho provato a vedere a inclinare tutta la schiena, cazzo, mi ha dolori. Devo fare tre passi. Fai pare che io non c'era a letto. Sì, ma il volume era basso. Guarda, io ho visto che faccio l'ho, faccio un fatto, ho preso il micro, perché mi spiego con un mano? Non lo posso fare. Dobbiamo fare questo mobiletto 4 per metterci la radio e un'altra mensurina. Ma lui, cosa ti ho detto a te? Cioè, no, per noi sto facendo questo da te. Vabbè, ma non so che ti senti. Quando finiamo lì quella roba là, si fa. Ma tutto il cancello però si aspetta. Ci prestisce, ci prestisce, dove sono arrivato? 3 secondi. Di attrezzatura la ce l'ho, dai, grazie a Dio. Sì, a Volga, quanti di Zeglaudio, cazzo di peso di quanti di Gama, ma non la metto di avvallamenta. Carboni, cazzo di E non hai visto tutto il resto che c'ho, Manuel, di trapani, padeline, segreti alternativi, tutto faccio. Paracchiudi. Adesso io mi dovrò prendere il trappano, perché quello che ho, cazzo, ve l'ho 20 anni. Pensa tu, c'era mio figlio piccolino, quando me l'aveva comprato mia moglie. C'ha 21 anni c'ha quel trappano lì. E sta rompendo la palla perché deve essere il coso della punta, il mandrillo. Deve essere mezzo consumata e non ce la fa più a stringere. Ah, c'è quella chiavetta dentata. No, questa è senza chiavetta, Tony. Con questa la stringi a mano e basta. E chi sono questi stringi a mano? E ciò che mi duri. Allora, quando metti la punta del trappano, la metti. Poi quando la usi il trappano, dopo non ti metti più la punta, non si smolla più il mandrillo. Non è entrato da polvere dentro, non l'avete mai pulita, no? Ma lo sapevo. faccio prima comprarmi uno, lo drama. Di solito quando si fanno i buchi nel soffitto e trova a pompere dentro il mantrino, dove è in casino, capito? Probabilmente che sia così, non lo so. Non lo so, Tony. Si fa il buco nel soffitto, bisogna poi aprirlo, montarlo, pulirlo, ingrassarlo, vedrai. Va bene, la parte del CRC. Però devo prendere nuovo e poi anche vicino, ma è quella batteria che volevo prendere. A vite svita. Come quello che ho preso il tuo radio. Certo, mi ha preso, ne ho preso due, perché veramente conviene, anche di quelle pile che io sono meccanico, è potente. Ui, attenzione. Bello, sì, ma appena esce il tonno, volevo far tagliare, ma la prendo anche io. Non la pila, la trappa. È uscito il nuovo catturatrice a filo continuo, 99 euro. Ma, boh. Quella da viaggio, quelle piccoline. No, grande la noè, 99 euro, grande. Sì, ho capito, ma quelle leggere sono. No, c'è il carrello, che è quello leggero. Non è da viaggio, che è da viaggio, è per casa tu. Ah, va, non è prendi quella roba lì, prendi quelle piccoline. Non è mai piccoline, capisco c'è il filo continuo. E ti fa anche l'altra pure a filo continuo. No, ne quelle piccoline no, deve essere, c'è il coso. Che si chiama, che deve attaccare alla pista, no? Questa l'ho preso anche io, ed è piccolina, sarà grande quanto, cosa ti posso dire, un po' più piccola della Galaxy, eppure fa anche a filo continuo. Quella è grandezza, è bella, cazzo. Però ripeto, ho detto mangi i soldi io, se lo pensi io, ma non me ne porto nulla. Che è che vuole fare? Ciao Lancio. Ciao Lancio. Guarda, io palle non le dico, la temperatura che ho io, l'avrei saputo se avessi aperto la bancarella, che avessi cacciato per di niente. Ciao Lancio. Pure attento. Comunque buonasera, Ciao Tonino, ciao. E mi abito il Cino. Ciao Giuseppe, come sei sentito? Che sto provando nuovo. Cosa stai provando? Non lo so, però capito. Adesso che sto provando Montoya, hai capito, modello M500 5033. Sì, ma la radio forse è normale, il microfono è normale, però non c'è. Lo so, ma lo sto provando adesso. L'ho ritirato da poco, cioè stavo provando a vedere se funzionava bene. Quanti canali c'è? 40, sì. Perciò, cosa vuoi? Questo è omologato, non è che... non è di quelli... Giuseppe, sì, un po' arretrato, l'omologazione non c'entra più niente. È uscita la legge che è stata ufficiale il 26 luglio, non devi neanche più pagare il canone, quindi... Va bene. Lo porto da Pomponia, però faccio pure il canone. Era qua Pomponia poco fa, da Pomponia l'ho telefonata. Lo so, l'ho telefonato. Era Pomponia niente. Stava rientrando, dai. Avanti, Emanuele. Ehi, ciao Giuseppe, ben sentito, vai, dopo tanto. Vai, Giuseppe. Ciao Emanuele, va bene, va bene. Sì, grazie, va avanti, dai. Adesso ho curato questo baraccino e vediamo un po' come sta uscendo. Io la mia baraccina, dai, non è come quella di Tonino Cavalzati, però è un piccolo 40 canali. No, sta uscendo bene, la modulazione va bene, segnale lo stesso. 9.20, 9.25, la radio è perfetta. E che non sono antenna centrale, oggi io sto usando la tua di uno, fatta così, senza la meno appunto, vai. Ah no, qui arrivi bene, a parte che sei anche in zona alta tu, Lo so, io sono qua, via Valdetta. Sì, già lo so dove stai. è una bella zona quella lì. Sì, vabbè. E anche a Tonino già gli arrivo abbastanza forte. Tonino. Ah, sei che sto attaccando la corsa. Sì, vabbè. Tu non mi ascolti lì in via Bardetta, Giuseppe? 9.30, a tipo di 10.40. Ma la modulazione la passa? No, no, va bene, va bene. Ultima. Forse sarà una delle migliori foto che è successo a fare, dai. Ok, dai. Andare, Tony, avanti. Tony, sto facendo qualcosa. Vai, Pompo. Via, via. Sto usando Giuseppe, un apparato che era senza piele. Figurati. C'era il trasformatore da cambiare. Io l'ho cambiato, gli ho messo piele, ho detto Giuseppe viene a tirarti il baracchino, ti ci sto regalando, gli ho detto. Ma sei sicuro? Sì, sto facendo tutto va bene. Ecco, mi sono fatto male. Figurati tu. E un tuo detto 586, che altro. Era quello di Bacchino. Ma che ci mi ha detto per pezzi. E io l'ho rimesso nuovo a posto. Giuseppe, come mi ascolti adesso? 9.30. La radio mi interessa. La radio è buona. Amplifica, sì. Hola, 1, 2, 3, prova. È ultima tu. Aspetta un po'. Hola. Amplifica, sì. Adesso sta amplificando un po'. È troppo forte sto microfono. Avanti, Giromino. Cazzo, ah, ma il cazzo pensavo quando mi veniva a Jos. Avanti, di rimaria. Borbonio. Oh, yeah. Sì, cosa mi racconti? Sono tutto un po' male, Giuseppe. Sono tutto messo male, cazzo nel disco. Sono più di un mese che non esco, perché non ce la faccio neanche a camminare. Faccio un passo e mi devo sedere per forza perché mi tirano i nervi delle gambe. Stavi lavorando? Sì, qualche giornata sto facendo, ma sono fermo, pure con questo cazzo di covid, peggio ancora. Giuseppe, attaccati al microfono male però, ti salti da un chilometro, ti ascoltiamo basso, capito? Non è come il microfono amplificato. Arriva bene. E Giuseppe che si distanzia, c'ha la mania del microfono, non è più abituato, capito? Si distanzia il microfono quasi un metro da come parla, quindi il discorso è quello lì. Giuseppe, avvicinati al microfono normale, non ti costa nulla. Io sono qua, ho il microfono in bocca, no, non pensare ad altre cose. In bocca? Vicino alla bocca. Il garage. E poi questa gente qui al mare. E meno male che ce l'hai in bocca. Non dice una delle sue. Certo che sei, cazzo. Vabbè, gli attivo il microfono, vabbè. Accidente, ti posso fare il microfono amplificato. Perché è diverso da un FM500S. Antonio, dai il tuo microfono. Vabbè, lui usa il microfono di Misla, non è che usa altro. Cos'è quello lì? Bisogna che trovo un microfono Midland, lo chiamo, vediamo un po', cosa dite. Eh beh, finita vedi fa brutto. Ciao Claudio. Amico, c'è Carboni. Altro Carboni. Allora, mi è finita la partita, era vinta la coppa, ragazzi, ne auguro. Chi c'è? C'è Bidoncino, Antonio Pomponi e Ginco. Dai, ci sentiamo dopo, dai, che devo fare cosa, dai, io saluto tutti e ci vediamo alle prossime, dai, ciao. Tanto adesso che tra Dio deve ci andare di tu, Santiago Nova qua, Monte Oro, Gappa. Ciao Giuseppe, ciao, buonanotte. Avanti Ginco. Ciao qua, ben sentito, dai. Ciao Giuseppe, buon collettivo tutto. Buonanotte, vai Popo, ciao Giuseppe, ci sentiamo domani. Buonanotte, buon tutto. Buon tutto. Che becca, quindi stavi guardando la partita, stavi guardando. Via, adesso ci andiamo a nanna, sono stanco molto anch'io, c'è un bel freschetto, almeno si riposa un po'. Non più guardate la Nico, almeno ti sei zuffato. Ciao Giuseppe, buon corretti. Meglio solo i chiamare accompagnati, le partite si guardava solo già. A meno che non sei fuori di casa, organizzato, allora va bene. Mi sembra aver sentito uno sciapò avanti. Vabbè, che tu sia buco, giocavamo dolenti. Detto ciao, buco di eccetera, eccetera. Ogni tanto si sente la verità, si va vivo ogni tanto. Ma no, non mi ha detto chi è, non lo so, io non lo sento, io sono col baracchino piccolo, 4 watt, va bene. Avanti Tony, va bene, non avete fatto niente? No, negativo, oggi avevo mia figlia da 50, tutto il giorno qua in campagna è stato così bene, ragazzi. Una bella mangiucchiata, pranzo e cena. Oh, quindi avete mangiato, insomma, già va bene, dai. E anche noi siamo stati bene, una bella domenica, adesso domani. Vediamo un po' se c'è da fare qualcosa, Sassari, se no me ne rimango qua. Beh, capo. Ci ho visto la torre acceso, ragazzi, sta così bene, la finestra aperta. Si respira adesso, dai. Domani partiamo, dal mono, piano piano. E te la prendi piano piano, poi già c'è fresco anche domani, dai, sempre a maestrale, la temperatura è abbassata, quindi già va bene. Avanti Ginko! Spero che sia fresco veramente. Vabbè, oggi non c'è da lamentarsi, dai, già si stava bene, c'era un po' di maestrale, io ero Alghero, si stava benissimo veramente. Non c'era quel caldo qua, che si ha di non vedere la terra, mamma mia. Un bel caldo c'era, meno male che c'era un fresco dentro, e via, poi quel lambruschino, peccato una bottiglia giusto per assaggiare, però vabbè, prossima volta compriamo un po' di più, la mettiamo in freezer e vedi che già ci passa la 7. E poi scendeva che era meraviglia. Quel poco che ho assaggiato era troppo buono, ragazzi. Tanto lì una bottiglia ce n'era, non è che potevi, quanto l'abbiamo visto, due bicchieri di plastica, io e Ginko, Emanuele, e poi alla fine è rimasto appena ce l'abbiamo diviso, quando si è andato tutto assaggiando non ce n'era più. E l'altro vino non ti piaceva? Ah, la partita era comodo. Se è vino malo, per carità, che schifo, ma anche a cucinare quello è buono. Infatti si chiama vino troia. Luisio, è vino gagata. Ma io se sono a pranzo che devo bere un bicchiere di vino, non sono un grande bevitore, però vogliamo un bicchiere di vino buono. E ti dico, quella bottiglia lì, se ce n'erano due era meglio, purtroppo ce n'era una sola, però veramente un bellissimo, un buon vino. Io domani mattina, siccome partiamo alle 11, verso le 9 dovrei qualcosa, vado, passo e meno un paio di bottiglie per metto già in frigo per il sicuro. Il frigo bravo, meno le buone in freezer e dimenticatene perché si crepa. No, in frigo, tranquillo qua. No, sono contento che sono riuscito a farmi il cancelletto, capito, per i cani, a mettere quelle strisce. Con un po' di materiale ce l'ha fatta lei. Sì, ma è brutto, il tempo noi stavamo organizzando, tu ti hai fatto il cancelletto. Già lo so, c'hai tutti i macchinari e cos'è, cazzo. Non li fai nulla, tu, a ferramenta a carbone. Ma non esagerare, sennò qualcuno dice che canta male che inizi l'inizi. Oh, è la verità, dai, ho visto con i miei occhi, ma lo siete. E cosa ti manca? Ma cosa ti manca? Nuda, proprio nuda. C'hai scaffali, armadi pieni, tutto bello ordinato, di tutto, materiali, chiavi, di tutto vai. Tutto, c'è anche macchinari che servono appunto per lavorare il legno, quindi. cosa non è balla, l'ho visto io con le mie occhi, quindi posso dire che l'afferramento a carbone non è venuto a vero o no? Così muove, ben attrezzato, non domandano da nessuno, danno di seguire una chiave e là, e c'ha tutto, così muove. E la chiave ci prova, e c'è cazzo già. Dammi un rotto di nato, un allargato 15, che misura ti scelte, dammi quello, un allargato 20, un coltello per tagliare il salato, una via 30, cascetti vieni, cazzo c'ha tutto, tutto, per me penso che cioè, non le manchi nulla, c'ha tutto. Mi hai chiesto qualche nastro adesivo, quello garzato già ne ho. Ma infatti ci avevi 10 colori di quello, a me mettevi un colore short. A me quando piace la roba che riserve, dico potrebbe servire in Nouci, ma domani io me la compro. Ma fate gli scherzi. Si è organizzato, ordinato e c'è tutto. Tutto, veramente tutto quello che serve per poter fare lavori di qualsiasi genere, capito? Non ti manca niente, va bene così. Io ho una cassetta dove c'è un po' di tutto, ma mischiata, insomma, quello che mi serve, no? Tu hai proprio le cose tutte separate, quindi va bene così, va bene così. E Alberto, lei? Dimmi tutto, sono qua. Ti ho sentito poco fa, stavi raccontando quando siamo andati a Budujo. Ti va a ricordare ancora quella volta lì di Budujo, a Puglia. Bei tempi, sì, siamo andati a piazzare l'antenna, non c'è. Davanti noi volevamo andare via, ti ricordi, invece non ci hanno fatto andare via, ci hanno apparecchiato, smagnata dei garri, da lì, ma carne così mi, senza niente, macellata la mattina e messa sulla graticola la sera. E niente, io vabbè devo guidare, ho avuto qualche bicchiere di vino, ma anche Antonello, qualche bottiglietta di birra, qualcosa così, poi siamo partiti. Va bene. E allora, Manuè, quindi ti ci preparendi con la puntura domani? Sì, io mi auguro che passa il futuro, perché cazzo oggi brutto mi faccia più male, cazzo non me la vado manca a camminare, tutto piegato a camminare, ma male, non piango cazzo dalla vergogna, perché è una cosa allucinante. Non lo so, non riesco a stare in piedi, come mi ha detto con la schiena, cazzo iniziano a tirarmi sì, questi nervi delle gambe, mi fa impazzire, mi devo subito a sedere. L'ho avuto anch'io, te l'ho detto, a me ogni tanto mi ritorna quando mi metto a fare cose che magari sto troppo inchinato, non pesi, però la così, capito? Cosa così, che non devo fare, però è un bel brutto, un bel, tante mattine alzarmi, andare a lavorare, rimanevo almeno 5-10 minuti fermo e piano piano mi addrizzavo, proprio come un vecchio cadrordo, vabbè, dai, piano piano, spero che già passi tutto, va bene, dai, signori belli, io vi saluto. Vado a guardarmi un po' di TV e poi me la vado a nanna, così mi riposo, perché anche io domani non è che me devo andare a mungere, però c'ho un po' di cosette da fare, devo anche rientrare a Sassari, andare a posto, fare un sacco di cose. Ciao Tonino, ciao Emanuele, buona passeggiata per domani, tenetemi aggiornato, ok? E ciao Antonello, ciao. Ci sentiamo domani, eh? Riprendi tu Antonio, fai girare per me QRT. Aspetta, Claudio. Sì, Tony. La prossima volta che ci avviene anche Antonello, ci facciamo qualche bella rostita qui, perché ripeto, Antonello non lo voglio trascurare, ce lo portiamo qua. Lui sta dicendo di andare in pizzeria, se no, veniamo qua, ci divertiamo di più. Non va in pizzeria, no? Allora da Tonino Antonio, posso prenderti io. Faccio prenditi io, stiamo lì, qua si sta da Dio, non rompere scatole nessuno, siamo in pochi e via. Già il cuoco c'è, Anthony, quindi no, non abbiamo problemi. quello che vogliamo fare facciamo. Se poi, cioè, gli amici tuoi che hanno qualche pezzo di cinghiale in freezer o Tony, te lo fai dare e ti faccio il cinghiale al sugo come lo so fare io, e col sugo del cinghiale ti faccio anche il primo, e facciamo il primo e il secondo, e poi ci può rostire qualche altra cosettina. Se lo procuri ti faccio vedere come si mangia il cinghiale cucinato da zio Claudio. Guarda, ieri sera tardi sono andato a prendere il amico mio macellaio da un passaggio, mi ha dato un bel pezzo di carne di cavallo, stamattina alla 50 l'ha fatta a fettine, un po' di olio d'oliva, aglio e prezzemolo, stasera l'abbiamo cucinate, burro, Claudio, troppo buone, guarda. E già mi dà roba buona, macellaio, non preoccuparti, amico mio, lui mette una busta e scrive 10 centesimi, grande amico. Tu non avrai problemi, a me mi dici cosa vuoi mangiare, io non ho problemi né con i primi né con i secondi, senza nessuna difficoltà, capito? Quello che vogliamo facciamo, se vogliamo lo stiamo, se no cosa vuoi mangiare, quello che vuoi, integrame, quello che vuoi. Tu mi dici cosa vuoi, io non ho problemi, qualsiasi tipo di cosa, se non vogliamo fare fuoco. Va bene, dai, un abbraccio a tutti, buon fine domenica e ci aggiorniamo domani. Io chiudo, vado a vedermi un po' di TV. Vai Antonè. Ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, con quelli tipo un tutto. Avanti e pigliatela. Oddio. Ciao a me, Antonello è del numero per le base in più. Ciao Claudio. Lo sappiamo che con i fornelli sia un mostro, non c'è problema. Ok, buon QRX, buon QRT, buon guardate TV, ci sentiamo, non ci aggiorniamo domani, dai, tranquillo. Avanti, Manuel. Ehi, ok, dai, ciao Claudio, buon QRT, buon tutto. Ce la riascoltiamo, dai, e ce la rivediamo ancora, in compagnia. Ne approfitto per chiudere anche io, che mi fa male la schiena, ma male la schiena, così mi sdraio, ma non mi passa un po'. Ciao Antonello, buonanotte, ciao Torino, noi già ci vediamo domani, e buonanotte a tutti comunque, dai. Ok, ciao Manuel, buonanotte, ci vediamo domani mattina. Stavi bene, buon corretti, buon 144. Avanti Antonè. Ciao Manuel, ci sentiamo. Buon corretti, buon tutto alle prossime. Ciao a tutti. Ciao. Tu che amplifica un becco sul microfono io. Oh, Antonè. Non voglio che amplifica, ci mancherebbe. Tu piccola che io sto usando questo lavandino come baracchino e esce bene. Quindi figurati tu, sono riuscito a livellarlo con questo tipo di microfono, se no il microfono suo esce un tubo, fa schifo. E questo è il carne super siderica, capito? Già lo conosci, uno dei migliori? Sì, lo conosco, che non fare. Se li metto qui, fate posso dire, un di quei microfoni vecchi, di portare più te, sono sicuro che esce bene questa macchina qua. Ci vogliono i microfoni, quelli modello antico, ci vogliono. A proposito, quando ci vediamo, ti ridò quella questione e me lo guardi, a che non funziona. E vabbè, lo so già. Mi porto il tester, non è preoccupato. Quando ci vediamo, prendo il tester e ti controllo tutto. Così te lo controllo direttamente lì, non c'è bisogno di tester, l'attore, quello che c'è da fare, hai capito? E te lo faccio lì, vabbè? Antonè, il tester ce l'ho io, il salvatore ce l'ho io, non c'è problema, quello che ti serve ce l'hai. E vabbè, ma io sono abituato al mio discorso di quello, capito? Quindi, vabbè, il salvatore non è problema, il tester conosco quello che ho io, capito? L'ultimo che ho preso. Quindi sono come regolambe, disco secondo lì. Antonio, io ho una pizza per medica da 190 euro. Ho capito, non ti voglio dire. Il fatto è che io conosco il senso del mio e mi posso regolare, capito, su tensioni e roba del genere, capito? Se c'è qualche anomalia, la colgo subito, capito? So cosa devo fare, tutto lì. Per quello non è che senza offenderti, la verità. I test sono tutti uguali, mi. Uguali. A un certo punto. Analogici, digitali, quelle che sono, però quello che ho preso io. Mi regolo tranquillamente, capito? Se c'è qualche problema, qualche resistenza, qualcosa, lo segna, capito? So i valori, se per caso cambia un valore, si cambia, eccetera, eccetera, tutto lì. Antonè, questo ti misura anche il respiro, a tutto. Vabbè, posso dire tu a testa, non c'è problema. Ok, vabbè, ho capito. Quello che c'è tu, è tipo multimetro si chiama, perché altro. Vabbè, meglio così, là. Beh, è uno dei migliori quello che c'ho, dai, preso da poco da Airscom, 190 euro, l'ho preso io. Dai, buona. Auguri allora. Senti, vabbè. Poi c'è anche la luce, lo smitter, da tutto. Oh mia, c'era un giorno che non mettevamo un baracchino qua. Lo so, perché non deve essere baracchino, ma perché ho tempo. Ma meglio che sia entrato a meno, passi un po' l'ora, ti distrai, cose del genere. Invece io, guarda, questo baracchino qua, la verità, ero già pronto a portarci nel casamento della Mondetta, dopodiché ho detto che non può essere che c'è un apparato che comprano, hanno fatto 2 euro, non serve a nulla, non può essere. Quindi a un certo punto ho cominciato a studiarlo bene, eccetera, finché non sono riuscito a agganciati il microfono giusto e esce bene. Tutto lì ed è perfetto, è veramente perfetto questo qua, forse lui come c'era la guardia Natalino questo qua. Esce Natalino, esce basso di raggio, io invece con questo qui esco perfetto. Ma è meglio così. Ma dunque non è che mi distraggo, ma io mi distraggo ogni giorno, guarda Maru, a Tonè. Ho mio figlioccio, ho Claudio, ho altri amici, io problemi non ne ho, amici ne ho, quanto ne voglio. E quando io telefono a qualcuno, appena non c'è caffè, non gli sembra vero, chi si sia. Perché mi sono sempre comportato bene con le persone, grazie a Dio. Non si posso dire male di me, ma solo bene, capito? Certo, se uno si comporta come certe persone, amici proprio zero. Quindi. Beh, quella è una cosa logica, ci mancherebbe. Finché uno si comporta bene ti diverti con uno, due, tre, quattro amici, non c'è problema. Non è in pizzeria, per dire, eccetera, eccetera. Quindi adesso io purtroppo ho quel problema di Simone, quindi non è che posso ampliare più di tanto, capito? Adesso la sto portando fuori la mattina a andare al bar a fare colazione, in modo da, capito, da farla muovere dal letto, eccetera, eccetera, se no tipo di abilitazione, capito? Non per me, no, per lei, no, che altro. E quindi è così. La sera quando esco devo stare con il telefonino acceso, eccetera, eccetera, dove sei, dove non sei, è una paranoia. Ma quando tu dici sono con Torino, sono in casa sua, in campagna. In tal posto, quando vuoi chiamare, chiama, non c'è problema. Sai che sei qua, sei tranquilla, capito? E la tieni tranquilla, serena. E sei serena anche tu. E poi lo già faccio salire a mia nipote, su, a casa, in modo che non sia sola, capito? sei Alessia, e quindi almeno è sono più tranquillo anche per lei, perché altro, perché altro. Scappa. Andrà bene. Guarda la tua lettera. Io chiudo, spengo tutto. E mi guardo un po' di TV e tu spengo tutto e mi addormento. Che domani mi alzare presto. Tu vieni a controllare la macchina, liquido, olio e via dicendo. E pressione delle gomme. Ok, già ci sentiamo questi giorni, dai, così ci organizziamo, ci mangiamo qualche cosa di buona. E ci passiamo una serata diversa dalle altre. Perché io martedì mattina rientro a lavorare, capito? Quindi, o si fa il fine settimana, o si fa fuori di questa sera. Ok, dai, salutami Corea, Simone, eccetera, tua nipote, Giovanna, e via dicendo. A domani. Ciao Antonio, stammi bene. Yeah, ciao Tony, ci sentiamo. Non c'è problema. Quando vuoi tu, non è un problema, non è un problema. Basta che male. Ok, ciao, buonanotte, buon tutto, alle prossime. Ciao, ciao, buonanotte.